Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Benvenuti nell'era della sheconomy, dove a decidere nel mondo dei consumi sono le donne. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questo è il tema del primo degli approfondimenti che vi vogliamo riproporre in questa nuova puntata dell'antologia estiva di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Dal mondo della bicicletta, uno dei nostri sorvegliati speciali, per così dire, arrivano numeri e suggerimenti su quella che è stata definita la Bikenomics e poi la storia di chi si è inventato la figura del bike blogger. Foto di biciclette, ogni giorno una diversa, in giro per il mondo. Nella seconda parte ripercorriamo una delle tappe fondamentali del nostro percorso alla ricerca dell'Italian Factor. Siamo arrivati alle stazioni di servizio, chiamiamole così, del nostro viaggio. Raccontiamo i casi aziendali di successo. Protagonista di questa puntata una delle eccellenze italiane riconosciute nel mondo, Brunello Cucinelli. La borsa della spesa. Secondo me la donna e l'uomo sono destinati a diventare uguali. In questa nostra epoca la civiltà si è data un grande affare per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia. C'è stato un graduale avvicinamento nel modo di comportarsi, di sentire, di pensare, insomma di vivere. Fino alla tanto sospirata parità. Però, secondo me, all'inizio di tutto c'è sempre una donna. Secondo me, la donna è donna da subito. Un uomo è uomo a volte prima, a volte dopo, a volte mai. Esiste una questione di genere nei consumi. Quanto variano le decisioni d'acquisto e i modelli di consumo tra uomini e donne? Come si stanno spostando? GfK Eurisco ha fatto il punto sulla nuova mappa di genere che rispecchia i nuovi equilibri sociali fra uomo e donna, equilibri che ispirano appunto nuove passioni, emozioni e attitudini per la proposizione di prodotti e servizi al maschile e o al femminile. Il vero target, ci dice Giuseppe Minoia, presidente di GfK Eurisco, ormai è la donna. La questione di genere sta diventando uno dei topics in questo momento, nel senso che in base alle nostre analisi le donne, non soltanto le donne italiane, ma le donne europee, in particolare le donne dei paesi dell'Europa meridionale, diciamo Italia, Grecia, Francia, Spagna, stanno diventando sempre più dei personaggi determinanti nel progettare i consumi. Nell'indicare a tutti in famiglia, ma anche fuori dalla famiglia ristretta, diciamo anche nelle logiche di network, quali devono essere oggi le scelte a livello di tratti e di funzioni dei prodotti, ma anche di marche, in una progettualità che è molto più chiaramente percepita e messa a fuoco dalle donne rispetto agli uomini. Ci sono settori più influenzati di altri per quanto riguarda le decisioni di acquisto al femminile? Beh, assolutamente sì. Cominciamo dalle banalità. Il settore dell'health care, tutto ciò che ha a che fare con la salute, il settore che ha a che fare con il food, ma non soltanto in chiave, diciamo, di pure scelte funzionali, ma di scelte progettuali, cioè cibo che fa bene, cibo che nutre in logiche progettuali lunghe, cibo adatto alle varie età della vita, cibo per i bambini, progettualità che riguarda l'alimentazione scolastica quando si entra dentro in percorsi di impegno di questo tipo, e progettualità anche per quanto riguarda i genitori anziani, perché non dimentichiamo che le donne, come diciamo molto spesso, doppio e triplo ruolo, hanno il ruolo di curare se stesse, di curare la famiglia, i figli, il marito, molto spesso anche i genitori, anche se non vivono nello stesso nucleo familiare. Quindi una responsabilità articolatissima. È per quello che noi diciamo le donne, tutto sommato, sono ancora, in termini brutali, il target per i consumi. Però esistono anche altri territori. Ad esempio, una nostra ricercatrice che si occupa in maniera specifica di finanza, di banche, di risparmi, ci ha fatto una relazione in cui chiaramente emerge un ruolo sempre più decisivo della donna anche nelle scelte di tipo finanziario, negli investimenti. Siamo a livelli che si stanno velocemente avvicinando. Qual è la differenza tra la donna e l'uomo? Beh, insomma, che questa donna ha bisogno di percorsi, di suggerimenti, di proposte che siano molto più, non diciamo chiare, ma molto più definite nel progetto. Torna molto spesso la parola progetto. Una donna pensa anche agli investimenti finanziari molto di più dell'uomo in logiche progettuali. Il tema, diciamo, di un divertimento nel gestire il denaro, che è tipico dell'uomo, nella donna sostanzialmente scompare. Oggi le donne le troviamo come colleghe, molto spesso anche come cape, molto spesso anche nella coppia la donna oggi guadagna di più del marito, o comunque non è sorprendente che lo sia, e tutto questo porta a dei comportamenti anche di scelta e di influenzamento per quanto riguarda i prodotti e i consumi di questo tipo. Molto interessante la vostra riflessione su un'economia e una finanza al femminile. Molte donne del resto sono al vertice anche di importanti organizzazioni finanziarie, penso a Christine Lagarde, a capo del Fondo Monetario Internazionale, penso a Janet Yellen al vertice della Federal Reserve. Quello che le voglio chiedere è questo: la presenza femminile nei posti di comando sta influenzando secondo lei anche le politiche economiche applicate? Cioè c'è in qualche modo una finanza al femminile, un modo femminile di vedere le cose? Dunque, questa è una domanda alla quale rispondo in maniera del tutto personale, perché non ho dati. Ecco, la mia sensazione è questa. No, in questo momento non è ancora così, anzi, in questo momento, se noi dovessimo analizzare alcuni ruoli politici determinati da alcune figure al femminile, dovremmo dire di no. Però io sono convinto che anche questo avrà un'evoluzione. Sicuramente nella donna, nella figura femminile, c'è un'attenzione a 360 gradi a tanti aspetti, anche nelle scelte politiche, anche nelle scelte economiche, anche nelle scelte di welfare per quanto riguarda la politica, e sicuramente tutto questo avrà una ricaduta positiva per quanto riguarda poi politiche di questo tipo. Dalla Womenomics, insomma, si potrà arrivare a quella che voi già definite una vera e propria she economy. Sì, anche se tutto questo a me fa un po' tristezza, perché stiamo analizzando molto, con grande attenzione, tutta la parte femminile, e ci stiamo anche rendendo conto che la parte maschile, cioè gli uomini in questo momento, si stanno un po' come rinserrando dentro valori, dentro scelte che sono un po' di corto respiro rispetto a quelle femminili. Io non credo che questo corto respiro durerà a lungo, io credo che anche l'uomo, il nuovo uomo, i nuovi uomini emergeranno con una nuova capacità di mediare nuovi valori, anche imparati, anche appresi dalle donne, e quindi anche dai nuovi uomini avremo delle splendide sorprese. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Da tempo abbiamo individuato nella bicicletta l'oggetto simbolo del cambiamento degli stili di vita e di consumo. Ora, sotto il nome di Bikenomics, iniziano a fare notizia anche le ricadute economiche dell'uso della bicicletta. Secondo un recente studio promosso dalla Federazione Europea dei Ciclisti, l'uso delle due ruote in Europa sarebbe in grado di generare ogni anno benefici economici pari a 200 miliardi di euro, una cifra superiore, pensate,

chi c'è dietro, chi sia, se un giorno magari potrà vederla, oppure se è un mio follower o chissà cosa. Io infatti adesso anche per farmi trovare, tra virgolette, ho fatto degli adesivi piccolini in cui dopo che ho spezzato la bicicletta gliela lascio un pezzetto attaccato, poi se vuole se lo tiene o altrimenti lo leva, con scritto: guarda, la tua bicicletta è stata scattata da Divano Letto, la trovi sulla pagina Instagram. Essere e avere. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Il vecchio Groucho Marx, per dirne una, Joe DiMaggio, il secondo movimento della Sinfonia di Jupiter, Louis Armstrong, l'incisione di Potato Head Blues, sì, film svedesi naturalmente, l'educazione sentimentale di Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili mele e pere dipinte da Cézanne, i granchi da Sam Wu, il viso di Tracy. Italian Factory. È il momento della nostra riflessione sul Made in Italy, sugli elementi con cui valorizzare, rilanciare e potenziare l'eccellenza italiana, moltiplicando così il valore di un paese, come ci ripete spesso l'autore del libro che ha ispirato quello che è diventato una sorta di manifesto a puntate. Francesco Morace, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Ci hai accompagnato, Francesco, in questi mesi in un percorso che da una dimensione storica è passato ad una più psicologica e poi socioculturale della tradizione e dell'eccellenza italiana. Siamo alla fase aziendale e ai casi esemplari dell'Italian Factor. Quello di oggi? Oggi parliamo di Brunello Cucinelli, che è diventato un punto di riferimento imprenditoriale molto citato anche quando si parla di nuovo possibile rinascimento italiano. E non è un caso, perché Brunello Cucinelli immagina alla fine degli anni 70 questa dimensione aziendale davvero come un nuovo rinascimento, quindi valorizzando la capacità italiana di ottimizzare il bello, l'eleganza, ma immagina anche una comunità che lavora con delle logiche nuove, ricollegandosi davvero alla sapienza greca e della grande classicità. Quindi Brunello Cucinelli, sia il suo nome che la sua azienda, ha veramente segnato un punto di svolta in questa nuova dimensione post-crisi. Una delle parole chiave di questa storia aziendale è la sostenibilità ambientale, aziendale e anche sociale. Sì, è proprio così. Brunello Cucinelli negli anni ha addirittura restaurato un borgo medievale che si chiama Solomeo, dove propone davvero una sorta di città di utopia, no? Quindi riprendendo queste visioni del passato, ma mettendo insieme l'eccellenza produttiva, perché la sua idea imprenditoriale è comunque quella del cashmere tinto in capo, no? Quindi è anche un'idea semplice ma realizzata in modo eccellente in ogni passaggio, e la cosa molto importante in questo è ridare anche dignità ai maestri artigiani che questa cosa la permettono, e quindi riconoscerne e risarcirne il talento. E quindi anche Brunello Cucinelli, uno dei pochi imprenditori che parla spesso di stipendi, no? E quindi che paga molto bene i suoi collaboratori, perché pensa che sia la base del suo successo. Mecenate del nuovo millennio, imprenditore filosofo, capitalista etico, sono molte le definizioni che sono state usate per Brunello Cucinelli. Abbiamo chiesto direttamente a lui quale preferisce e perché. Ma onestamente il sogno della mia vita è sempre stato quello di dare dignità morale ed economica al lavoro, quindi vorrei essere considerato una persona per bene che è custode per una piccola parte del tempo di una piccolissima parte dell'umanità. Questo è ciò che più mi piace, diciamo. Ecco, la prossima domanda era proprio questa. Lei si definisce custode della sua azienda, in che senso? Ma vedi, c'è un problema di fondo. Se lei si sente proprietario, ha paura di perdere e vive tutto con uno spirito diverso. Il custode è colui che restaura, abbellisce, appunto custodisce per donare a chi verrà dopo di noi. È una vita diversa, e come dice mio babbo, se non vuoi essere il più ricco del cimitero è ancora più facile. Partendo dalla maglieria in cashmere e dall'intuizione di renderla innanzitutto colorata e poi anche femminile, perché queste sono state le sue intuizioni, lei ha costruito un brand globale del lusso, una delle eccellenze italiane riconosciute nel mondo, sviluppando l'azienda, facendola crescere in modo etico. Ecco, quali sono state le regole di questo sviluppo etico che le viene riconosciuto universalmente, non solo in Italia? Ma innanzitutto la base è di far profitti senza recar danni all'umanità, e questi profitti in qualche maniera ridistribuirne una parte per abbellire l'umanità e una parte chiaramente per gli esseri umani. Vede, lavorare per 1.000 euro al mese facendo un lavoro spesso ripetitivo, artigianale, e poi questo lavoro ha perso la sua dignità morale che aveva nel Rinascimento. E quindi questo è il tema di fondo: far lavorare le persone in condizioni migliori, producendo prodotti di altissima qualità, sperando di non recar danni all'umanità. Lei si è dato una vera e propria regola per la ripartizione degli utili. Ma diciamo che prima della quotazione in borsa, in qualche maniera, gli utili venivano ripartiti, una parte importantissima all'azienda perché fosse più solida, una parte a me, ma vivo in un piccolo paese, non ho particolari necessità, una parte ai ragazzi sotto forma di stipendio più alto, perché guadagnare 1.000 euro al mese poi non è così tanto facile, e una parte importante da destinare all'abbellimento dell'umanità, che significa restauro di una chiesa, di un monastero, piuttosto che di un ospedale. Ora siamo quotati in borsa e questo è solamente in parte possibile, e quello che faceva prima la società cerco di farlo io con la nostra fondazione. Intorno alla Brunello Cucinelli ha costruito una vera e propria rete sociale, c'è una fondazione, un teatro, c'è il bellissimo borgo di Solomeo dove avete la sede operativa di tutto, e soprattutto c'è anche una scuola dei mestieri. Ecco, qual è stata l'ispirazione del costruire tutte queste cose? Ma in realtà io sono nato in un borgo e vivo in un borgo, quindi, come diceva Rousseau, nel 1765 dobbiamo tornare, le nostre città sono difficili da vivere, dobbiamo tornare nei borghi, ridiscutere e riprogettare l'umanità, pensi com'era contemporanea. Sì, al borgo abbiamo il teatro, abbiamo l'accademia, abbiamo la biblioteca e abbiamo anche scuole di teatro, di musica, di danza. Io volevo mettere vicino alla scuola delle arti le scuole dei mestieri, come fece William Morris e John Ruskin nel 1860 per ridare dignità morale ed economica al lavoro. Quindi le scuole delle arti non sono remunerate, le scuole dei mestieri sono remunerate, perché pensavo che fosse un po' più carino per incentivare questi ragazzi. Quando decisi di farlo immaginavo che pochissime persone si sarebbero iscritte. In realtà abbiamo avuto tantissime richieste. Ecco, la cosa carina secondo me delle scuole dei mestieri è che le discipline sono circa 8 ad oggi, quindi ci sono i muratori, ci sono gli agricoltori, i giardinieri, poi ci sono coloro che fanno il nostro mestiere, quindi sarti, maglieriste, rammendatrici. Quindi i suoi studenti, gli studenti della scuola dei mestieri ricevono uno stipendio? Sì, ricevono questa borsa di studio di 700 euro, ma la cosa importante è che magari vanno al Barretta a far colazione e incontrano, perché no, un regista di teatro, Lavia, che sta facendo qualche cosa, piuttosto che un ballerino, e quindi in qualche maniera si sentono nobilitati. Devo dire una cosa importante a pro dell'artigianato: non sono più artigiani di 50 anni fa, lavorano con l'iPad, l'iPhone, hanno i laser, le forbici, l'ago, quindi in qualche maniera credo si possano definire degli artigiani contemporanei. La Brunello Cucinelli ha una quota molto alta di esportazione, siamo intorno, se non sbaglio, quasi all'80%. Che cosa viene colto nei mercati così distanti, cito uno su tutti, la Cina, della vostra storia, di questa storia fatta di saper fare, di artigianalità, di legame fortissimo con il territorio? Ma diciamo che per noi il primo mercato è quello americano, e che rappresenta più del 33%, e c'è un po' di fascino per questo lifestyle, per questo territorio, per questa maniera di lavorare, ma io credo che questo sia il tema molto contemporaneo, perché gli esseri umani conoscono tutto, i giovani conoscono tutto, e non è più come mio padre che lavorava purtroppo non conoscendo niente e conseguentemente spesso veniva umiliato al lavoro. Quindi i giovani conoscono, ecco che da qui parte una nuova moralizzazione dell'umanità, ne sono convintissimo. Veda, il mondo intero è affascinato dai nostri manufatti, dai manufatti europei in generale, dal nostro modo di vivere, dalle nostre specificità, ma se è affascinato da questi manufatti, chi saranno quelle mani speciali che produrranno questi manufatti speciali? Ecco che dobbiamo tornare quindi a ridare dignità morale prima ed economica poi al lavoro artigianale. Quindi lei pensa che il suo modello possa estendersi, il modello di capitalismo umano, di impresa umanistica, possa contagiare anche altri settori, altre realtà? È nostro dovere essere contemporanei e credo che anche il capitalismo in qualche maniera debba essere contemporaneo, e per essere contemporaneo e per essere credibili dobbiamo essere veri, tutti quanti, perché ormai tutti ci guardano. Brunello Cucinelli, l'azienda esisterebbe al di fuori del suo territorio, e se sì, sarebbe diversa? Io penso di sì, ho sempre immaginato che questa viva per l'eternità, quindi sono un custode, ho cercato di far sì che l'azienda, appunto, che la cultura d'impresa potesse durare nei secoli, questo è l'obiettivo forse di ogni imprenditore, specialmente italiano, perché noi non siamo per cultura finanzieri e queste nostre imprese le trattiamo come dei nostri piccoli figli. Ecco, una cosa di diversa, io penso che l'impresa non si erediti. Si eredita la proprietà privata, ma non la capacità di gestire questa impresa, e anche il motivo per cui noi siamo andati in borsa, per essere più internazionali, per ascoltare, per avere il coraggio di ascoltare coloro che non la pensano come te. Quindi l'essere andati in borsa non vi ha cambiato, non vi cambierà? No, assolutamente no, ad oggi, e devo dire sono particolarmente contento perché gli investitori veramente hanno concepito e capito il messaggio dell'impresa e ci sostengono immaginando che anche il profitto debba avere la sua dignità. Francesco, mai come in questo caso l'etica diventa estetica e viceversa? Eh sì, è proprio così, e questo dimostra che intanto questi due mondi non sono antagonisti, non sono uno contro l'altro armati, e quindi usciamo da un'idea di sostenibilità che è solo ecologismo militante, è pauperismo, è anticonsumo. Qui siamo ormai sbarcati in un mondo in cui la sostenibilità è qualità della vita, eccellenza di prodotto, colore brillante, quindi qualcosa anche di molto felice, rispettando però tutte le regole e nello stesso tempo anche aggiungendone qualcun'altra, e quindi considerando l'etica al centro del proprio business. Grazie a Francesco Moracci, grazie a Fabio Cantadori in regia. Appuntamento a sabato prossimo alle 16:30. Non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.